Quando tomerà il respiro, canta. Daremo camminato lì con campa. Yeah, come on, everybody hands up. Ma da sana chi lo da campa. Se so caso e gli pio lo canta. E tu sei 3, 2, 1, mezzo a noi. Sono risco, attacco con il sol, nanca e corona se t'attierò. Nare ai danai le camito e non se so. I ricco, nanca ciò chi tuki a che sa che so. Wachi agaru tansei ga yuki to naru tachi agareba. Ima izo kurushimi to monau. Sore demo saigo wa kitto wanau. Subete sarau, shouri to kansei. Everybody stand up. Agero kyo ichiban no chikan da. Me ni mo tomaranu speedo hanta. Dare mo ga minato riko kanba. Yeah, come on, everybody hands up. Matasana Hilo, the comeback. 通常数え指折るカウンター.